molti paesi sono isolati, Capoterra in primis, che è una cittadina che ha oltre 20.000 abitanti, la statale 195 è interrotta, quindi tutta l'area in sostanza del Basso Sulcis, della costa sudoccidentale della Sardegna, di fatto è costretta per potersi muovere sulle strade ad ampi giri di addirittura centinaia di chilometri, perché purtroppo la 195 è l'arteria, diciamo, principale per tutta quella zona. Nel Sarrabus lo stesso, in Ogliastra, diverse aree sono completamente allagate, così come nel Basso Campidano. È successo che purtroppo si è ripetuta una situazione già verificatasi negli anni scorsi numerose volte. E in buona sostanza diversi fiumi hanno straripato, la rete della viabilità, soprattutto quella secondaria, non ha tenuto, e ci sono appunto tutti i disagi purtroppo che siamo già abituati a vedere. E infatti proprio su questo appunto, in un articolo su Green Report lei mette nero su bianco i numeri, che insomma sono impressionanti. Ricordiamo 5 anni fa in provincia di Olbia 19 morti, ma ci sono state anche altre alluvioni. Sì, ma l'Italia purtroppo è un paese sotto il profilo idrogeologico abbastanza fragile, perché fondamentalmente negli ultimi 60 anni, 70 anni, dal dopoguerra in poi, una sempre più accentuata antropizzazione del territorio da un lato, abbandono del territorio dall'altro, soprattutto nelle aree collinari e montane, ha portato di fatto a interventi sempre più pesanti e sempre meno ragionati. Io penso alla canalizzazione dei fiumi, alla tombatura di numerosi corsi d'acqua, a interventi devastanti soprattutto nei crinali, pensiamo alle deforestazioni, ai disboscamenti, anche a certi tipi di taglio tradizionale che hanno portato di fatto ad un aumento del rischio idrogeologico, tutto il contrario di quello che sarebbe stato necessario fare. Noi da tempo stiamo proponendo un vero e proprio intervento generale di risanamento ambientale idrogeologico del territorio, che tra l'altro oltre a portare vantaggi sotto il profilo ambientale e sotto il profilo della sicurezza pubblica, porterebbe anche vantaggi sotto il profilo occupazionale, ma lavoro vero, non palliativi o poi forme così secondarie che possono cercare in qualche modo di sostenere magari un'economia che non ha certamente bisogno di questo. E noi proponiamo un vero e proprio piano di risanamento ambientale idrogeologico dell'intero territorio nazionale, capillarmente organizzato con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, per poter di fatto andare a intervenire su tutte quelle situazioni, e sono tante, che oggi provocano queste che noi chiamiamo calamità innaturali, perché spesso e volentieri sono attivate da comportamenti umani, e quindi significherebbe da un lato pulizia dei fiumi, rinaturalizzazione delle sponde, sistemazione dei versanti con rimboschimenti, lavoro che può essere dato a tutte le varie tipologie, tra l'altro dal livello progettuale al livello gestionale, ma anche a livello veramente di intervento manuale. Se noi pensiamo a quante persone oggi sono di fatto prive di una qualifica lavorativa e quindi possono svolgere soltanto purtroppo le mansioni più basse, anche a loro bisognerebbe dare una possibilità di intervenire positivamente in questo grande lavoro di risanamento del territorio nazionale, e sarebbe il lavoro vero. Certo, che è un altro suicidio. Problema che in Sardegna insomma c'è molto, ma anche in realtà in tutto il paese. Assolutamente, sì. Noi in Sardegna abbiamo, così giusto per dare un'idea, della forza lavoro, cioè le persone in età lavorativa tra i 15 e i 65 anni, abbiamo a vedere più della metà di fatto al massimo può vantare il titolo di studio della scuola dell'obbligo, della terza media. Che possibilità ha nel mondo del lavoro? Ben poca. Allora un intervento di questo genere darebbe la possibilità di lavoro vero e soprattutto di lavoro utile a tantissime persone, e questo veramente non sarebbe male. Ma darebbe lavoro anche, ripeto, a progettisti, darebbe lavoro a geologi, darebbe lavoro a ingegneri, ad ambientalisti, paesaggisti, ai ingegneri appunto che si occupano della rinaturalizzazione del territorio. Sarebbe un intervento di carattere carattere generale che dovrebbe essere sostenuto a tutti i livelli, dal livello nazionale al livello regionale. La messa in sicurezza del territorio viene evocata purtroppo ogni autunno in Italia dopo un'alluvione e una frana. Sì. E ecco, dal punto di vista delle risorse e dei provvedimenti, come dire, anche governativi o regionali, cosa è cambiato in questi anni? Poco nulla. La realtà è che, vi faccio proprio l'esempio dell'area del Cagliaritano che in questi giorni è stata colpita da questi eventi. Alluvioni se le sono verificate negli anni 90 più volte, nel 2008 disastrose, con interruzioni nuovamente della statale 195 ancora 3 anni fa. Ebbene, sono passati gli anni, la situazione è sempre la stessa. Non che non siano stati fatti alcuni interventi, ma decisamente poco. Soprattutto non si è evitato di proseguire con quegli interventi pesanti di antropizzazione del territorio. Penso a edificazioni, costruzioni anche in aree a rischio idrogeologico, interventi che non fanno comunque che aumentare il rischio. A questo punto è veramente come se la mano destra non sapesse quello che fa la mano sinistra. E il risultato è sotto gli occhi di tutti. Poi fortunatamente oggi non sembra così, in molti casi ci siamo trovati a piangere anche parecchie morti.